e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eh sì, noi siamo una coppia, no? Diciamo la verità. Diciamo la verità. E in qualche modo anche oggi parliamo di coppie a cuore e denari. In particolare in apertura torniamo a parlare di coppie che scoppiano. Non faremo una puntata, lo prometto subito ai nostri ascoltatori, sulla crisi che ha portato alla separazione proprio sotto Natale fra Belen e Stefano De Martino, che devo dire che ha interessato relativamente la popolazione mondiale. Però ha occupato un sacco di pagine. Brava. Di gossip, di cronaca di gossip. Parleremo invece oggi di tutti i comuni mortali che affrontano le conseguenze economiche della separazione e del divorzio. Sappiamo bene che uno dei punti più spinosi che si devono affrontare in questo frangente è quello della quantificazione dell'assegno di mantenimento di uno nei confronti dell'altro. Un punto su cui negli ultimi anni è intervenuta ripetutamente la Corte di Cassazione. In particolare ci chiederemo cosa succede se in un secondo momento alla separazione, al divorzio, l'ex coniuge destinatario dell'assegno di mantenimento inizia a convivere con un'altra persona. L'entità dell'assegno può essere rimessa in discussione, ne parliamo proprio perché la Cassazione è reintervenuta di nuovo con una sentenza pubblicata appena 2 giorni fa e noi la commenteremo con il nostro ospite di riferimento su questi argomenti. Intanto 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione se il tema vi interessa, vi coinvolge, se vi siete trovati in questa situazione. Iniziate a prenotare i vostri interventi. E parleremo di una coppia anche nella seconda parte della trasmissione, nella parte di cuore. Infatti parleremo di una coppia speciale, unita nella buona e nella cattiva sorte, della relazione tra cuore e cervello. Secondo infatti una ricerca che arriva dall'Università di Atlanta, le arterie svelano la salute futura del nostro cervello. E lo studio in questione è pubblicato su una rivista molto prestigiosa, si chiama Hypertension, e sottolinea che l'elasticità, tenete a mente questo termine, delle arterie, che è stimabile con una ecografia dei vasi, è un'ottima unità di misura del rischio di declino mentale di individui, attenzione, sani e insospettabili. Quindi, dato che arterie e cervello ce le abbiamo tutti, 800 24 00 24, mano alla cornetta, soprattutto se avete più di 50 anni, fumate, se siete un po' stressati, magari anche un po' sovrappeso, o se avete in famiglia delle persone che hanno avuto un problema al cuore o al cervello, insomma in famiglia un caso in cui la relazione tra questa coppia è stata un po' a rischio. 800 24 00 24, ma anche 349 238 6666. E Deborah, ricordiamo sempre ai nostri ascoltatori che possono raggiungerci anche via WhatsApp. Attraverso WhatsApp. A tra poco. Io credo che tu mi debba delle scuse, Barbara. Se hai qualcosa da dirmi, io sono qua. Io voglio il divorzio. No, ma che divorzio? Ma cosa dici? Neanche per sogno. Non sai quanto ci ho riflettuto. Io proprio non voglio più essere sposata con te. Ma perché mai vuoi divorziare? Insomma, ti ho fatto qualcosa? O non ti ho fatto qualcosa? Non riesco a specificare i motivi, Oliver. Beh, provaci! Non ci voglio provare! Insomma, io in caso dovrei chiedere il divorzio. Voglio dire, quello portato all'ospedale in preda a una grave... indigestione. Sì. Sei una grande esperta nell'arte di farmi passare da cretino. Allora, quando un matrimonio finisce, le questioni di denari, oltre che quelle di cuore che vanno affrontate, lo sappiamo, sono tante. Ci sono le esigenze dei figli, c'è il tema dell'assegno di mantenimento che va riconosciuto al coniuge che viene considerato economicamente debole, e poi ci sono le nuove famiglie che si formano e che cambiano le carte in tavola. Nell'aprile di quasi un anno fa la Cassazione è intervenuta con una sentenza di portata che è stata definita all'epoca, me lo ricordo perché abbiamo fatto la trasmissione, quasi storica, e ha stabilito che la formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell'assegno divorziale di cui il medesimo benefici. A questa sentenza di quasi un anno fa aggiungiamo l'ennesima pronuncia di pochissimi giorni fa, che interviene ancora su questi aspetti, sulla scia di una richiesta di un uomo che aveva chiesto appunto proprio di rivedere le condizioni economiche dell'assegno. Per tornare a commentare questo argomento, soprattutto per spiegarci tutte le implicazioni pratiche e concrete di questa sentenza appena pubblicata, è tornato a trovarci, non qui a Milano, purtroppo è sempre a Roma, ma riusciremo a portarlo qua, l'avvocato Gianetto Regassani, matrimonialista. Buongiorno avvocato, buon se anno. La ride buongiorno e buon anno, naturalmente buon anno. Uno dei massimi esperti italiani di diritto di famiglia, autore di un libro che abbiamo citato molto spesso, che è i perplessi sposi, ma poi ha consegnato alle stampe, anzi non alle stampe, all'editoria, a noi tutti, da dicembre è in libreria il recentissimo appunto Vi dichiaro divorziati, come cambia il matrimonio in Italia. Ho detto tutto correttamente, avvocato Cassani? Sì, sì, perfetto. In primatura la casa editrice, il libro sta andando molto molto bene, soprattutto da Roma in su. Ah, ecco, anche questo magari uno spaccato interessante. Beh, perché ci sono più separati e divorziati al centro-nord rispetto al centro-sud. Benissimo. È un libro che interessa molto a una certa fascia di popolazione. Allora adesso ce ne racconterà anche i contenuti, perché ce ne sono anche di molto interessanti che sono proprio strettamente legati al tema che affrontiamo questa mattina. 800 24 00 24, il numero verde per le domande degli ascoltatori. Vedo già qualcuno che sta cominciando a mettersi in coda per intervenire e raccontarci la propria situazione familiare, che spesso appunto è molto, molto delicata quando si affrontano questi problemi. Allora, avvocato Cassani, la Cassazione, lo dicevo in apertura, è sempre molto attiva sul tema del diritto di famiglia, in questo caso sul tema dei diritti e dei doveri di ex coniugi. Ci spiega in parole semplici cosa ha stabilito questa sentenza depositata appena 2 giorni fa. Per gli appassionati dei riferimenti legislativi, la ricordo, è la numero 225 del 2016. Peraltro ieri con il mio assistente, con Marco Lombardo, commentavo: ma com'è possibile che all'inizio di quest'anno siano già 225 le sentenze pubblicate? Come numera la Cassazione? Ma in effetti la Cassazione è particolarmente organizzata, c'è la prima sezione che riesce a sfornare molti provvedimenti, ma dobbiamo considerare che sono sentenze depositate nel 2016, ma erano già state confezionate prima. Quindi proprio un atto formale, sì, che ha portato a questa numerazione. Ecco, cosa stabilisce questa sentenza? Questa sentenza conferma un principio, che se il coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento allaccia una convivenza more uxorio, stabile, duratura, perde l'assegno di mantenimento. Perché la Cassazione in qualche modo, anche indirettamente, conferisce valore alla coppia di fatto, alla famiglia di fatto. Perché molte volte ha una struttura sovrapponibile a quella di una famiglia di sposati. Per cui c'è un concorso nelle spese di casa, c'è un mantenimento reciproco, c'è una sorta di solidarietà, per cui la Cassazione, anche un po' rifacendosi agli orientamenti europei, si è posto il problema di dire per quale motivo una persona beneficiaria di un assegno debba avere poi ulteriori aiuti dal convivente o viceversa. Per cui a questo punto, se tu stai con un convivente, devi rinunciare all'assegno di mantenimento. E questa è un'aspra battaglia. Ogni giorno ci sono ricorsi in cui spesso i mariti chiedono la revoca dell'assegno di mantenimento per le mogli, e lì poi si gioca la battaglia delle astuzie avvocatesche: non è vero, è venuto 2 volte soltanto, non conviviamo, non stiamo sotto lo stesso tetto. Perché chiaramente la Cassazione fa un distinguo molto importante: attenzione, se io ho una relazione con una persona non è un problema, ma se viene a convivere a casa mia stabilmente quindi è come se fosse un coniuge, e cambia tutto. Quindi si possono lasciare relazioni, si può amare, ma l'importante è che non far diventare il nuovo compagno un nuovo marito o una nuova moglie, perché altrimenti si perdono i soldi. Però per la revisione dell'assegno di mantenimento, quindi costa caro. Esatto, avvocato Cassani, in ogni caso bisogna anche dimostrare che questa convivenza sia effettiva e che cambia le condizioni economiche della persona, quasi sempre appunto l'ex moglie, che fino a quel momento aveva beneficiato dell'assegno appunto di divorzio. È questo punto, un altro punto mi pare ancora specifico. No, non è intervenuta non la Cassazione su questo. No, non è proprio così. Il problema è la prova, che non è facilissima sempre, anche perché adesso tutti sappiamo che se una donna o un uomo, quelle poche volte in cui riceve un assegno, accoglie nella propria vita un'altra persona, perde l'assegno. Per cui adesso si tende ad andare un giorno a casa di lui, un giorno a casa di lei, e quindi si evita la convivenza, quindi la stabilità del rapporto nella stessa casa. Però la Cassazione non ha operato un distinguo se tu stai con un uomo ricco, se stai con un uomo meno ricco o un uomo che non ha nulla. Nel momento in cui allacci una convivenza, perdi l'assegno. Per cui le rendite cosiddette parassitarie, spesso la Cassazione utilizza questi termini, vengono abolite. Considerate anche un altro dato molto importante. Gli assegni di mantenimento per i coniugi più deboli oggi sono una rarità, nel senso che se prima nel 70%, 30 anni fa, il 70% delle separazioni comportava il riconoscimento di un assegno di mantenimento a prescindere nei confronti del coniuge più debole, oggi soltanto nel 17% dei casi, e nel nord questo trend tende addirittura a diminuire. Cioè a Milano non si superano il 12-13% dei casi rispetto a 100 separazioni, quindi 12 volte su 100 il giudice riconosce un assegno di mantenimento ad un coniuge più debole. Ma i casi si vanno riducendo. Sta cambiando la mentalità. Prima di tutto perché molte donne non chiedono l'assegno, esatto. Molte donne lavorano. Magari per velocizzare anche la chiusura del rapporto. Ecco. E poi è anche un problema di carattere giuridico e morale. E poi non dimentichiamo che quando tu riconosci un assegno ad una moglie, poi scatta l'assegno di reversibilità e quindi poi lo paghiamo tutti quanti. Probabilmente la magistratura si rende conto che non si può riconoscere a tutti indiscriminatamente un assegno di mantenimento, perché significa poi una pensione un domani. Avvocato, ci dobbiamo fermare perché c'è il traffico, però prima di ascoltare già due ascoltatori pronti ad intervenire, sono Antonio da Foggia e Lanfranco da Cosenza, volevo preparare il terreno intanto alla domanda che le vorrò fare a rientro dalla pausa, perché su questo tema che lei ci ha spiegato è intervenuta anche una sentenza della Cassazione un anno fa. Mi pare che i risultati e le pronunce siano simili, vorrei capire se entrambe sono maturate dallo stesso caso, sono due casi diversi che in qualche maniera hanno portato ad una conclusione diversa, ad una conclusione simile da parte della Cassazione. A tra poco. Cuore e denari. Io credo che sia opportuno, dopo un bel po' di bellissimi anni passati insieme, che tu mi dia una fondata ragione. Io mi sono fatto un culo così per guadagnare abbastanza da farti vivere da una pappa. E ora me la devi, una ragione che abbia un senso. Quando ti guardo mentre mangi, quando ti guardo addormentato, anche solo a guardarti ultimamente, mi viene una gran voglia di spaccarti la faccia. Spaccamela. Spaccami la faccia. Vuoi spaccarmi la faccia? Un'altra volta, bada. Io la spacco a te. E sarà meglio che ti trovi un avvocato con le palle. Il meglio che puoi pagarmi. Avvocato Gassani, Barbara Rosi è venuta da lei? Allora, quante ne vede di situazioni di questo tipo in cui ci si arriva anche un po' a spaccare la faccia? Avvocato? Tutti i giorni, ecco. Tutti i giorni c'è una violenza di fondo. Magari non ci si mette le mani addosso, ma si fanno tante anche altre forme di violenza. Rimaniamo al nostro assegno di mantenimento. 800 24 00 24, il numero verde per ascoltare i casi degli ascoltatori, che molti ci stanno già chiamando. Ribadisco il tema dal quale siamo partiti: alcune sentenze della Corte di Cassazione che stabiliscono che l'assegno di mantenimento si può modificare nel suo importo qualora cambino le condizioni economiche delle coniuge economicamente più debole, che fino a quel momento, dopo la separazione, appunto, è stato mantenuto dall'ex coniuge invece economicamente un po' più forte. L'ho molto banalizzata la situazione. Due sentenze, una di quasi un anno fa e un'altra recentissima pubblicata due giorni fa. Avvocato Gassani, brevemente, la differenza fra le due pronunce qual è? Ma la prima sanciva il principio per cui la Corte d'Appello non aveva accolto l'istanza di un marito che sosteneva che la convivenza in qualche modo avesse dato un aiuto economico alla moglie, quindi bisognava revocare l'assegno. Nel caso dell'ultima sentenza è stato confermato il principio, ma la Corte di Cassazione ha censurato il comportamento della Corte d'Appello perché non aveva ammesso le prove testimoniali che il marito aveva chiesto in ordine all'esistenza vera della convivenza, e soprattutto aveva bypassato l'omissione del deposito delle prove documentali, degli estratti conto, per cui era un'istruttoria monca, e la Cassazione quindi ha cassato questo provvedimento ritenendo che la Corte d'Appello abbia fatto due errori grossolani. Quindi è sullo stesso caso che sono arrivate due pronunce diverse? Non sullo stesso caso, ma su due casi simili. Però il primo sanciva il principio: attenzione, chi convive perde l'assegno. Il secondo, pur confermando il principio, ha censurato la scelta processuale della Corte d'Appello, che non aveva ammesso di sentire i testimoni e non aveva in qualche modo obbligato la moglie a produrre gli estratti conto, e quindi non c'erano le prove. E la Cassazione bene ha fatto, perché io credo che quando si tratta tratta di stabilire l'instaurazione di una convivenza che riguarda poi questioni economiche, bisogna essere particolarmente severi e precisi. Certo. Magari poi ce lo spiega, avvocato Gassani, quali sono le indagini che deve effettuare un giudice per stabilire quando va riconosciuto l'ammontare dell'assegno di mantenimento. Prima però vorrei cominciare a sentire anche gli ascoltatori. Preannuncio già che, siccome io il libro dell'avvocato gli ho potuto dare solamente un'occhiata veloce, non l'ho ancora letto, ma so che c'è contenuta anche la storia di un novantenne che ha chiesto ed ottenuto il divorzio per sentirsi libero. E questo testimoniare il fatto che il 20% delle separazioni in Italia oggi riguarda gli over 65, come dice l'avvocato Gassani nel suo libro, è proprio il segno dell'Italia che cambia. Non è mai troppo tardi, insomma, avvocato. Se la sarà, chissà cosa avrà fatto questo signore dopo. Allora, cominciamo con Antonio da Foggia, che si è messo per primo in attesa di interagire con noi. Antonio, benvenuto. Buongiorno, grazie per avermi chiamato e ringrazio tutti. Volevo chiedere un'informazione al legale. In poche parole, cioè io ho fatto una separazione e lei ha firmato che non voleva nessun tipo di mantenimento. Sì, Antonio, si può avvicinare un po' la bocca alla cornetta, sì, cortesemente, o se ha un auricolare, perché la sentiamo fosse un eco. Ok. Allora, io ho fatto una separazione e lei non ha chiesto nulla, perché ho una situazione debitoria molto alta. Poi ho chiesto il divorzio perché non ritengo che sia giusto che lei percepisce la reversibilità della mia pensione quando sarà il momento. E in poche parole sono stato condannato a pagare 250 euro mensili che mi trattengono dallo stipendio e non riesco più a vivere. Cioè, questo è il concetto del discorso. Una persona che sono già 3 anni che ho chiesto il divorzio e me lo rimandano perché io non ho figli. Il giudice dice che vengono prima gli altri casi. Questo mi sembra molto ingiusto per una persona. Io non ho intenzione di risposarmi, ma non posso pagare questo assegno e intanto me lo trattengono e io non riesco più a vivere. Antonio, in bocca al lupo per tutto. Sentiamo che cosa le può suggerire di fare l'avvocato Gassani. Questa persona versa in una condizione economica, da quello che racconta avvocato Gassani, molto precaria, situazione debitoria, a cui si aggiunge anche questo prelievo dallo stipendio della somma che va versata alla moglie. Ma è possibile che in fase di separazione l'assegno non vada riconosciuto e poi si stabilisca che invece debba essere riconosciuto dopo il divorzio? Teoricamente sì, soprattutto se il giudice ravvisa un peggioramento delle condizioni economiche del coniuge più debole. Però mi sembra strano questo tempo che passa. Insomma, il Tribunale di Foggia è un tribunale importante, certo. A Milano per ottenere un'udienza ci vogliono massimo 90 giorni. Sì, poi che venga a dire anche un giudice: no, ci sono casi più importanti del tuo. Mi pare che ci siano anche delle date da rispettare, i casi, i limiti, eccetera. Posso suggerire all'ascoltatore, se ha tempo, magari di scriverci una mail un po' più articolata sul suo caso, e magari avvocato Gassani gli diamo così un indirizzo per potersi muovere, per poter recuperare una situazione anche di dignità economica più rassicurante. Sentirei Lanfranco da Cosenza adesso. Lanfranco, buongiorno. Buongiorno e grazie. Allora, il mio caso è un po' diverso. Io sono separato da 30 anni. Sì. 30 anni. Perché non ho mai divorziato? Perché quando ho provato a divorziare negli anni 80-90, mi era stato chiesto una liquidazione, come si dice, di dare alla signora, che allora era di circa 100 milioni di lire. Va bene? Allora chiaramente ho detto: io senti, questi soldi non ce l'ho e non te li do, va bene? Spero solo che tu possa finire sotto una macchina. No, va bene, no. No, mi perdoni, perché uno si sfoga a un certo punto. Lo so, la credine è questa. Sono passati 30 anni, Lanfranco. Lei non li aveva, non li poteva dare. Adesso il punto qual è? Dopo 30 anni... Allora, che è successo? Nel 98 io mi sono riaccompagnato con una signora e ho una figlia. Sì. Bene? A quel punto io ho smesso di dare i soldi a lei, perché lei ormai da più di 6-7 anni viveva con un'altra persona, sì, va bene? Ho smesso di darglieli, punto e basta, va bene? Chiaramente, come si dice, mi hanno ricercato, siccome vivevo un po' all'estero, un po' in Italia, eccetera, non mi hanno... Adesso io continuo a vivere un po' nell'ombra per questa situazione, mi capisce? Perché io non gli darò mai niente, perché... Mi perdoni, io avevo una carriera nel mio ente molto molto provizia. Bene, questa non decide di fare il divorzio perché non vuole venire ad abitare con me va bene, a 70 certo. chilometri. Franco, detto questo, è acqua passata, avete ormai due vite, avete ricostruito le vostre vite, ormai tutta questa ruggine dovrebbe essere passata, mi pare che non sia ancora così. Aveva una domanda per l'avvocato, lei voleva raccontarci solamente la sua storia per testimoniarci un po' quanto si faccia fatica ad uscire da queste dinamiche. Lanfranco, aveva una domanda per l'avvocato? Sì, avendo smesso di dargli soldi, diciamo, questo mantenimento... Qualcuno può rivendicare questa, esatto, questa somma un domani? Grazie Lanfranco, esatto. Avvocato Gassani. La risposta è sì. La signora è creditrice di... di tanti anni di assegni non pagati. Tra l'altro, alla luce di alla luce di queste due sentenze, però, delle quali abbiamo parlato stamattina, che stabiliscono che se ti rifai una vita le tue condizioni economiche cambiano, non è detto che l'ex coniuge ti debba corrispondere l'assegno, comunque si può rivedere l'importo. Il nostro ascoltatore può far può richiamarsi, appellarsi anche a queste due sentenze, oppure il passato, sì, il pregresso? No, però per il pregresso deve pagare. Per cui lui avrebbe dovuto azionare una procedura di modifica delle statuizioni economiche. Non lo ha fatto, per cui a questo punto potrà interrompere dal momento della sentenza il pagamento dell'assegno, ma quello che è stato, quindi ha un debito forte nei confronti della moglie. Allora, noi tra poco dobbiamo dare la linea al giornale radio, ma ritornando, avvocato, per alleggerire un attimo il clima dopo l'ultimo caso che abbiamo sentito molto pesante, devo dire. Parlavamo degli over 65 che si separano in misura crescente. Possiamo immaginare che le implicazioni economiche di queste separazioni siano decisamente più complicate di quelle conseguenti ad una separazione dopo pochi anni di matrimonio. È così o non è così? Non c'è dubbio, non c'è dubbio, anche perché spesso quando ci si separa a quest'età è la sindrome di Peter Pan che fa da padrona, cioè molte volte sono gli uomini che assumono queste iniziative, perché mentre quando le donne sono giovani sono loro nel 60% dei casi a dire basta. A voler abbandonare il... Sì, quando dopo i 65 si invertono i rapporti di forza, sono gli uomini che vogliono dire basta e vogliono rifarsi la vita, quel famoso caso... I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te. A un certo punto la canzone dice finisce qua e io avrei voluto aggiungere l'assegno di mantenimento, chi lo dà, no? Che te ne pare, Nicoletta? Mi sembra un'ottima conclusione. Allora, stiamo parlando questa mattina nella parte di denari, di cuore denari, di assegno di mantenimento, di coppie che scoppiano e di due sentenze della Corte di Cassazione, una pronuncia emessa un anno fa, un'altra pubblicata appena due giorni fa, che stabiliscono che questo assegno di mantenimento può essere rivisto se l'ex coniuge che ne aveva avuto beneficio fino ad un determinato punto della propria vita dà vita ad un'altra famiglia, ad una nuova convivenza. Allora l'ex coniuge che invece ha sempre sborsato ha il diritto, naturalmente, o di, avvocato Gassani, rivederne l'importo o di annullarlo del tutto. No, annullarlo del tutto. Annullarlo completamente, sì, quindi non la revisione tutto. Dell'importo. No. 800240024, abbiamo dato dello spazio stamattina a voi ascoltatori che ci avete raccontato i vostri casi, abbiamo raccontato anche di come sta cambiando lo spaccato sociale di riferimento in cui... Intanto, avvocato, ci sono anche questi due istituti nuovi, no? Il divorzio veloce e la negoziazione assistita, che permettono di velocizzare le operazioni di chiusura di un matrimonio. Ci sono molte coppie che fanno ricorso a queste modalità veloci per chiudere la loro storia matrimoniale. Il divorzio breve è entrato in vigore il 26 maggio ultimo scorso e ha fatto già registrare circa un 30.000 richieste di divorzio, anche di coppie che avevano richiesto la separazione nel 2014 e nei primi sei mesi del 2015, quindi diciamo che è stata una legge particolarmente sfruttata. Per la negoziazione assistita, o meglio divorzio fai da te, invece non ci sono stati dei numeri incoraggianti. Poca gente evita il tribunale e va solo dagli avvocati a risolvere le proprie questioni. lo fanno soltanto gli anziani quando non ci sono figli e non ci sono trasferimenti patrimoniali o immobiliari, possono andare al comune, possono firmare un prestampato e con 16 euro ottenere prima la separazione, dopo 6 mesi ritornare al comune e richiedere il divorzio. Per cui soltanto per alcune fasce la negoziazione assistita è stata utile, per gli altri vanno tutti in tribunale e basta. Però vanno col divorzio breve, che in ogni caso rispetto al passato accelera un po' le procedure. Una cosa importante è un'altra, che si sta ridimensionando un fenomeno antipatico. Il turismo divorzile, cioè la gente che andava all'estero a divorziare. Adesso gli italiani restano in Italia e esercitano i propri diritti nel nostro paese. Allora andiamo a questo benedetto o maledetto assegno di mantenimento, i casi dei nostri ascoltatori. Si forma una nuova famiglia, il coniuge che lo percepiva adesso non lo percepisce più. Alberto da Roma ci pone una questione che proprio mi poneva Nicoletta a microfoni spenti. Nicoletta, guarda la linea 5. Alberto, benvenuto. Buongiorno e grazie della possibilità di fare la domanda all'avvocato. Mi ha tolto le parole di bocca, mi ha rubato la domanda. Era proprio una nostra curiosità. Vada Alberto. Allora, io sono separato, mia moglie convive con una persona divorziata e chiaramente non sta sullo stato di famiglia, in quanto non può starci essendo solo separata. Io ho i certificati di residenza dove chiaramente si evince che risiedono nello stesso immobile. Può darsi che hanno fatto anche un contratto d'affitto simulato con subaffitto da una parte. È sufficiente come prova documentale della convivenza? Serve a lei, Alberto? Lei vuole negare, sta conferendo un assegno di mantenimento e vuole annullare? No, io voglio chiedere il divorzio, quindi voglio essere tutelato ulteriormente, che non può, siccome in teoria possono essere richieste cambiare le condizioni, richiede un eventuale assegno se sono cambiate le condizioni economiche della parte più debole, che non è questo il caso. Volevo capire però se il certificato storico di residenza dove si evince che convivono è sufficiente oppure dovrei portare i figli come testimoni e trovare altre prove testimoniali tramite agenzie di investigazione, che è una cosa un po' antipatica, eppure si arriva anche a quello. Lasciare stare. A parte bisogna verificare se sono maggiorenni o minorenni. Io credo che un certificato... comunque è antipatico. Credo che lei potrebbe tranquillamente utilizzare questa documentazione anagrafica e forse una relazione di un investigatore di 2 o 3 giorni, tanto a costi piuttosto contenuti, potrebbe essere sufficiente. Manuela da Bologna. Qua introduciamo anche il capitolo figli per bocca di una diretta interessata. Manuela, benvenuta. Salve, buongiorno. Allora, in sostanza la mia domanda è questa. Sono figlia di divorziati. Ho 35 anni, negli anni intorno all'86-87 arriva il divorzio. Viene deciso un assegno di mantenimento sostanzialmente per me che non è stato mai percepito, insomma non è stato mai elargito da mio padre. Ma quando è avvenuta la separazione, Manuela, fra i suoi genitori, lei che età aveva? Allora, io ero molto piccola, la separazione è avvenuta perché io avrò avuto 1 anno e mezzo, 2. Il divorzio avevo 5-6 anni, adesso vado a ricordo, insomma non è che... Comunque era largamente minorenne, ecco, per capire anche i tempi di raggiungimento poi della sua autonomia e autosufficienza economica, perché anche questo è un aspetto che probabilmente entra in gioco, secondo me, poi magari l'avvocato mi smentisce. Esatto. Ecco, io volevo sapere innanzitutto se vanno in prescrizione queste la possibilità di richiedere un eventuale risarcimento. Se ne ho diritto, mia madre non ha mai fatto richiesta, ecco, nemmeno io. Era giusto una curiosità, se ho diritto a richiedere qualcosa, ed era un assegno esclusivamente per me, non per mia madre. Esatto, no, per questo che ho voluto puntualizzare anche il tema della sua età. Avvocato Gassani, allora c'è un grande dibattito intorno alla durata del dovere di mantenimento che grava sulle spalle del genitore a cui spetta di staccare l'assegno, no? Perché poi anche qui c'è stata una grande attività da parte della Cassazione che proprio nel 2013 ha stabilito che questo dovere non dipende dall'età dei figli ma persiste fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, che Emanuele evidentemente tra 1 e 5 anni non poteva avere. Esatto. Cosa le suggerisce questo caso? C'è una sorta di corresponsabilità anche da parte della madre che non ha agito per il recupero delle somme per la figlia. C'è una legge, c'è una procedura, ci sono gli avvocati, i tribunali, a un certo momento quando c'è stata questa morosità avrebbe potuto procedere in sede penale o in sede civile e non l'ha fatto. Per quanto riguarda gli assegni dal 18° anno di età, cioè da quando la signora è diventata maggiorenne ad oggi, si potrebbe eventualmente instaurare una procedura di risarcimento del danno forfettario al tribunale, perché chiaramente sono passati degli anni, ma non si prescrive il diritto a ottenere un ristoro di quello che il padre non ha fatto, per cui può stare tranquilla, può rivolgersi a un avvocato, spiegare la situazione e promuovere un'eventuale vertenza. Allora, noi stiamo andando verso la conclusione di questa prima parte della trasmissione. Avvocato Gassani, tra l'altro, no, prima avevo lanciato questa domanda, chiudiamo magari con questa, proprio per stabilire in termini generali un assegno di mantenimento. Che tipo di indagini deve effettuare un giudice? Che informazioni di quali informazioni appunto ha bisogno? Come se le procura? Ma guarda, io lo scrivo molto chiaramente nel mio libro Vi dichiaro divorziati. Io spesso parlo di questo argomento. Allora, innanzitutto il giudice pretende, quando inizia la causa, che si portino le ultime 3 dichiarazioni dei redditi, le ultime 2 buste paga, e si faccia un atto notorio attraverso il quale si spieghi esattamente la propria posizione economica e patrimoniale, se hai barche, se hai case, se hai mobili di valore, quadri, titoli, azioni, eccetera. Devi dire tutto, perché il giudice ha il potere di sguinzagliare la polizia tributaria. Per cui bisogna essere leali e corretti, perché si possono passare ovviamente dei momenti molto difficili, perché ci possono essere anche interventi di giudici penali, per cui il processo di separazione e divorzio è un processo molto serio e i giudici stanno molto attenti. Quindi bisogna avere anche avvocati che sappiano dare i consigli giusti. E noi scegliamo sempre quello, direi, più pertinente per questo lavoro. Grazie avvocato Grazie. Gassani per essere stato con noi. Buon Vi lavoro. Ricordo il suo libro in libreria da dicembre scorso, Vi dichiaro divorziati, come cambia il matrimonio in Italia. Non mi ricordo l'editore, avvocato, ce lo ribadisce? Primatur, imprimato in tutte le librerie più importanti d'Italia. Perfetto, grazie allora, grazie. Buon lavoro. A presto per i suoi consigli e suggerimenti. Buona Deborah, giornata. Vogliamo salutare le ragazze? Sì, sì, salutiamole, che adesso le ripesco, ma se ce le sì. Sono le ragazze del Bar Tabacchi Rande a Porta Rendezvous credo magari ce lo racconteranno. E appunto anche noi abbiamo un Rendezvous di Caserta, con la seconda parte di Cuore Denari, e quindi come succede su una pista da ballo, cambio di coppia. Clifford Stan, nessun messaggio, vuol vedere? Sì, il mio cuore dice una cosa, il mio cervello ne dice un'altra, sai. Non è facile, no, mettere d'accordo cuore e cervello. Per me, cuore e cervello, i miei non si danno neanche del tu. Eh sì, cuore e cervello, di questa coppia, come anticipato, ci occuperemo in questa seconda parte di Cuore e Denari. Secondo infatti una ricerca che arriva dall'Università di Atlanta, le arterie svelano la salute futura del nostro cervello. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Hypertension e sottolinea che l'elasticità delle arterie, che è stimabile con un'ecografia dei vasi, sia un'ottima unità di misura del rischio di declino mentale di individui sani insospettabile. Quindi chi ha cuore, 800 24 00 24, lo stesso numero verde vale per chi ha cervello, quindi anche il nostro numero per i messaggi a vostra disposizione al 349 238 6666. Oggi ci occuperemo di questa coppia così importante e partiremo quindi dalla salute delle nostre arterie pulite, lisce e pervee. Così devono essere le carotidi, ad esempio, per fare il loro lavoro, che è portare sangue ossigenato al collo e al cervello. È un lavoro che, lo sappiamo bene, è importantissimo e determinante, molto simile a quello che svolgono le coronarie per il cuore. Allora, tutti sappiamo che se le coronarie si ostruiscono, il cuore ne risente. Bene, la stessa cosa capita al cervello: se le carotidi si restringono e si ammalano, succedono danni. Quindi teniamole da conto, anche noi oggi possiamo fare la nostra parte, ad esempio imparare a conoscere i fattori di rischio. Ci aiuta oggi la professoressa Cristina Giannattasio, che è direttore della cardiologia quarta, dipartimento cardio toraco vascolare alla Fondazione De Gasperi, ospedale Niguarda, e ordinaria all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno professoressa, grazie per essere con noi. Buongiorno e grazie a lei. Professoressa, lo spunto, come abbiamo anticipato, ci viene da questa ricerca, che ci dice una cosa molto importante, che l'elasticità delle arterie è una sorta di cartina tornasole, diciamo così, della salute del nostro cervello, o meglio ci può aiutare a rilevare il rischio di declino mentale anche in individui sani e apparentemente insospettabili. Allora, cominciamo con anche dirci che cos'è questa caratteristica della carotide, del vaso arterioso carotide, che ci può servire per valutare lo stato di buona salute, non solo del vaso stesso, ma anche di altri organi, in effetti ora diciamo il cervello, ma sappiamo anche del cuore. Le carotidi, come tutti i vasi arteriosi, hanno la capacità di dilatarsi durante la fase sistolica e di tornare poi in diastole alla loro dimensione iniziale, una capacità dovuta alla elasticità della loro parete che si chiama distensibilità. La distensibilità è una misura della salute del vaso arterioso, perché un vaso che comincia ad essere malato si irrigidisce. Allora, l'interessante di alcuni dati che in questi ultimi anni ci stanno raggiungendo è che una misura così, come dire, semplice anche da ottenere, se vorrete ne potremo anche parlare di come fare, ci dà informazioni su altri organi che ricevono sangue e che ne hanno bisogno per poter ben funzionare. Ecco, questo è il cervello in particolare. Sembra risentire molto negativamente di un calo della elasticità delle arterie e soprattutto della carotide, ricevendo meno afflusso ematico, ma probabilmente anche perché anche gli altri vasi intracerebrali diventano più rigidi, meno utili allo scambio ematico, e quindi soffre, può dare delle problematiche di carattere amnesico ed essere l'iniziale segno di un declino anche di funzione del nostro cervello, che poi diventa importante. Quindi, professoressa, la carotide, le carotidi sono considerati lo specchio, no? Sono considerate lo specchio del cuore, no? Della salute del cuore e della salute generale del nostro organismo. Noi abbiamo citato questa ultima ricerca pubblicata su Hypertension, ma ci sono anche delle splendide ricerche italiane, tutte italiane, che hanno anticipato questi dati. Adesso diciamocelo. Ecco. Che questo ci solleva anche un po' il cuore. Ecco. Molto, molto giusta e molto corretta. Negli anni immediatamente scorsi abbiamo fatto con dei gruppi di lavoro totalmente italiani una rete di lavoro cardiologica che ha unito diverse cardiologie sul territorio, alcuni studi molto interessanti che hanno proprio voluto vedere come le carotidi, che sono studiabili con l'ecografia in maniera molto molto semplice, del tutto indolore, del tutto non invasiva e se vogliamo anche molto rapida, ci possono dare un'informazione realistica e up to date di quanto anche un altro vaso fondamentale, che sono le coronarie, possa essere ammalato. Allora voi capite che poter aiutare il cardiologo nella scelta del come fare e quando fare certe terapie, certe interventistiche, può assumere una rilevanza assolutamente non banale. Questo era un aiuto e alcuni dati devo dire che sono stati anche molto apprezzati a livello internazionale. Allora, carotidi. 800 24 00 24, professoressa, abbiamo capito perché sono importanti, devono essere mantenute ben elastiche, ma ci faccia una carta d'identità. A Deborah piace molto invitare i nostri esperti a fare una sorta di biglietto da visita. Abbiamo capito, sono importanti, ma dove sono situate e soprattutto che cosa fanno? Allora, le carotidi sono i vasi principali nel collo, sostanzialmente partono, diciamo in maniera semplificata, dal vaso principe del nostro organismo che è l'aorta, vanno una a destra e una a sinistra lungo il collo, iniziando come carotide comune, poi si dividono una carotide interna e una carotide esterna, che vanno ad irrorare le varie aree, sia encefaliche che invece di strutture varie della nostra testa, praticamente la testa e il collo. Quindi, se noi pensiamo che il cervello sia l'organo principe, che ci è fondamentale, è chiaro che l'afflusso ematico attraverso le carotidi è fondamentale. Che cosa fanno? Portano sangue e, come dicevamo prima, non hanno un flusso continuo, ma essendo rifornite con il battito cardiaco hanno un flusso naturalmente che è pulsatile, e in questa loro pulsatilità vanno a mandare sangue però continuamente muovendo il loro diametro. Ecco, questo è un pochettino la loro funzione. Benissimo. cercheremo anche di capire chi può essere a rischio e soprattutto cosa fare per mantenere le nostre carotidi belle, lisce, pervi e soprattutto elastiche. Lo stile di vita, lo sappiamo, ha delle ovvie ripercussioni anche sui vasi carotidei. Allora, sì, individuiamoli questi fattori di rischio per cercare di capire quanti rischi possiamo correre. E professoressa, io vorrei che lei ci aiutasse a puntualizzare un po' e profilare un po' i nostri ascoltatori per evitare, no, di fare il solito elenco che comprende fumo, ipertensione, livelli elevati, sì, di colesterolo nel sangue, perché è vero, ce lo sentiamo sempre ripetere che questi sono fattori di rischio che impattano sulla nostra salute, ma abbiamo bisogno di essere un po' chiamati per nome per intervenire al nostro numero verde e soprattutto per prendere consapevolezza, perché possiamo stare magari assolutamente bene e questo ce lo auguriamo, ma dobbiamo prendere consapevolezza dei rischi che possiamo correre. Allora, a chi suoniamo un campanellino oggi? Agli ipertesi? Ma a tutti gli ipertesi indistintamente? Sì, allora io direi che noi sappiamo molto bene quali sono le condizioni e le condizioni, diciamo, di patologia generale sistemica che più danneggiano la funzionalità delle carotidi. Sì. E comincerei da quella, diciamo, in questo momento più diffusa a livello planetario, e cioè i dismetabolismi, in particolare glicidici, quindi il diabete, sì, l'obesità e la cosiddetta sindrome metabolica, che non è altro che una sorta di coesistenza di varie situazioni di rischio nello stesso paziente. Per buona sostanza, il paziente, la persona un po' sovrappeso, che fa poco esercizio fisico, anzi è sedentaria, che mangia disordinatamente, la cui glicemia è elevata e nonostante sappia benissimo che controllando la sua dieta potrebbe migliorarla, non lo fa, quindi si predispone ad avere diabete, questa persona è una che probabilmente avrà delle carotidi più precocemente irrigidite e poi nel tempo malate. Quindi il primo soggetto è, diciamo, che dobbiamo dire attenzione, guarda che le tue carotidi probabilmente si ammaleranno precocemente, la persona sovrappeso, sedentaria, con un pre o un chiaro diabete. Allora, 800 24 00 24 se vi sentite in qualche modo vicini a questa categoria. L'età può fare la differenza? Possiamo invitare chi ha superato i 50 anni? Direi di sì, perché? Perché si ammalino in maniera definitiva e chiara le carotidi prima di questa età, direi che devono esistere delle patologie anche genetiche o delle dislipidemie importanti. Normalmente 50 anni è un buon crinale oltre il quale la persona dovrebbe un pochettino preoccuparsi dei suoi vasi arteriosi e cominciare quantomeno a metterli in attenzione al proprio medico curante. Almeno a ricordarsi che ci sono. Sì, cominciamo a pensare che ci sono, poi dopo vediamo il da farsi con i nostri medici di medicina generale, che purtroppo non è che possono prescriverci qualsiasi cosa, però identificando delle situazioni di maggior rischio si può cominciare a parlarne quantomeno, quindi più di 50 anni è una buona idea. Più di 50 anni, chiamateci, uomini o donne, se fumate, quanto fumate o avete smesso da poco, ma da quanto? Professoressa Giannattasio, li mettiamo nel nostro elenco, i fumatori? Assolutamente sì, i fumatori sono una categoria di persone davvero a rischio, il loro cuore, il loro cervello, i loro vasi sono super a rischio. Abbiamo una marea di dati che ce lo dicono e anche questa funzione di cui ci stiamo occupando quest'oggi, la distensibilità arteriosa, è particolarmente colpita, colpita e affondata, possiamo ben dire, dal fumo di sigarette, in particolare quando è un'abitudine inveterata e anche appena abbiamo sospeso, perché per avere un beneficio occorrono vari anni, quindi sospendete al più presto e sappiate che i vostri vasi, se hanno ricevuto un danno e un'accelerazione di invecchiamento, non miglioreranno rapidissimamente, ci vorrà parecchio tempo. Però ce la faranno. Intanto andiamo a qualche segnale. Ad esempio Willy ci sta scrivendo: addormentamenti pomeridiani involontari possono rivelare patologie carotidee? Così come ad esempio il cuore che sfarfalla, un affanno che arriva anche quando generalmente facciamo magari una passeggiata o la semplice corsetta per andare a prendere il tram. Sono delle situazioni che devono farci pensare, almeno di riferire al nostro medico questi sintomi per eventualmente procedere poi ad un esame? Direi che tutte queste situazioni che sono state segnalate vanno comunicate subito al proprio medico curante, che sa come considerarle. Per quello di cui stiamo dicendo oggi ne sottolineerei due. Sì. Una, quella che è stata notata come questo appisolamento pomeridiano, perché una tendenza all'ipersonnia può essere la spia luminosa di una situazione che si chiama OSAS, apnee nel sonno. Le apnee nel sonno, che sono anche loro un fattore che va a invecchiare i vasi precocemente, quindi hanno una parentela stretta con quello di cui stiamo parlando, sono una condizione per la quale la persona pensa di dormire, in effetti dorme, ma è un sonno non ristoratore, con delle apnee letterali, di cui il soggetto si può accorgere, ma anche no, che danno come riscontro durante la giornata una maggior fatica e una tendenza all'addormentamento. Quindi sì, assolutamente. Insomma, dai nostri profili, professoressa Gianna Attasio, rientriamo tutti. Quindi numero verde a vostra disposizione, ma adesso chissà se ci farai battere il cuore con i mercati. Sì, perché ho delle buone notizie da darvi. Oh. Quindi un battito di cuore da innamoramento, direi. Magnifico. Guarda un po', a tra poco. Cuore e denari. C'è un principio di magia fra gli ostacoli del cuore. Veloce veloci siamo tornati insieme oggi in compagnia della professoressa Cristina Giannattasio, che è direttore della cardiologia quarta al Dipartimento Cardiotoraco-Vascolare alla Fondazione De Gasperi e all'Ospedale Niguarda di Milano e docente all'Università Milano Bicocca. Stiamo parlando di arterie, in particolare stiamo parlando di coronarie. Dobbiamo cercare di mantenerle flessibili. La flessibilità infatti è un indicatore prezioso per il medico per capire un po' la nostra salute generale, ma è anche la caratteristica che ha un impatto molto positivo sulla nostra salute. Ne stiamo parlando, 800 24 0024, anche per aumentare la nostra consapevolezza nei confronti delle coronarie, soprattutto in alcune categorie di persone che la professoressa Giannattasio ha delineato. Un po' ci siamo caduti tutti, ma in particolare per le persone che soffrono di sindrome metabolica, sono magari sovrappeso, hanno un sonno disturbato, soffrono di russamento, meglio di apnee del sonno, dei sedentari anche parliamo e delle persone sovrappeso, senza dimenticare naturalmente i fumatori. A questo elenco abbiamo aggiunto anche i cinquantenni, gli over 50, quindi 800 24 0024, stiamo aspettando le vostre telefonate, ma con la nostra ospite cercheremo di darvi anche indicazioni per capire come si tengono sotto controllo, che cosa possiamo fare anche per mantenerle sane, pervie, lisce, soprattutto elastiche. Darei, professoressa, se lei è d'accordo, la parola ai nostri ascoltatori, che come sempre ci aiutano ad arrivare meglio, no? In medias res. Allora, andiamo subito ad Adriano, che ci chiama da Alessandria. Buongiorno Adriano. Buongiorno, ho 68 anni quasi, sì. Sono un po' sovrappeso, cammino per smaltire un po', cerco di fare le scale a piedi, però vorrei farmi controllare le arterie. Io solitamente quasi tutti gli anni a fine gennaio faccio un controllo del sangue eccetera. Visto che adesso vorrei andare, quali sono gli esami che permettono di avere un quadro? Allora, metto insieme alla domanda di Adriano, facciamo un'infornata di telefonate, come si dice. Una batteria. Nicolò, che ci chiama da Genova. Nicolò, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, vi ringrazio di avermi chiamato. ci racconti. Niente, io avevo degli acufeni, diciamo, a entrambe le orecchie. Mm. E il medico mi ha fatto fare un eco Doppler. Sì. E solo che è venuto che a destra c'è una placca fibrocalcificata. Mm. In sostanza le conclusioni dell'operatore, diciamo, che mi ha fatto l'eco Doppler è stata stenosi lieve arteria carotide esterna destra. Ok, quindi... E volevo sapere un attimino se questo qui comporta, avendo, dicevo, questa placca, questa stenosi al 20%. Certo, allora le placche lo sappiamo bene che aderiscono e si accumulano lungo l'interno delle arterie, non solo rendono più stretti questi vasi sanguigni vitali, ma li rendono anche più rigidi. Professoressa, è corretto? Allora, io comincerei però dal signore di Alessandria e dai suoi esami del sangue e eventualmente ulteriori accertamenti. Allora, gli esami del sangue che ci consentono innanzitutto di escludere, perché prima nel dialogo l'abbiamo detto è rimasto un pochino sfumato, un'altra situazione estremamente importante, ovviamente l'aumento della glicemia. Il diabete è assolutamente una patologia principe e che accelera enormemente l'invecchiamento vascolare. Per cui nei nostri esami ematici ci dovrà essere sicuramente la glicemia, sì, sicuramente tutti i valori della lipemia, per cui il colesterolo, l'LDL che è la sua frazione, quella cosiddetta cattiva, ma anche l'HDL che è quella buona, che però se è bassa, se è troppo bassa ci dà l'indicazione che qualcosa non va. Naturalmente la funzione renale, perché il rene anche lui è capace di dare dei danni quando non funziona bene, perché non vogliamo adesso dire che i vasi riflettano tutto l'organismo, ma insomma abbastanza, gli organi principali sì, e anche direi un buon emocromo per essere sicuri di avere emoglobina abbastanza per avere ossigeno dappertutto. Poi a questi esami cosiddetti di routine possiamo allegare un elettrocardiogramma molto molto semplice, di pochissimo impatto anche per il sistema sanitario, che ci dice a grandi linee come stanno le coronarie, e se vogliamo, dati 68 anni, ci fosse in allegato un'alterazione glicemica, un'alterazione lipidemica, un'alterazione di qualche altro esame, possiamo chiedere un eco color Doppler dei tronchi sovraortici per avere uno stato dell'arte del vaso. Che è poi l'esame che ha fatto il nostro ascoltatore di Genova. Eccola. Il signore che ha fatto l'esame e l'ha trovato leggermente alterato. Allora, sottolineo leggermente, perché una stenosi del 20% di fatto ci dice che non è una vera patologia ancora conclamata, è un inizialissimo espessimento, un inizialissimo irrigidimento che ci dice attenzione, i tuoi vasi stanno invecchiando, potrebbero essere un pochino malati, ma non hanno ancora una malattia che possa giustificare un approccio particolarmente aggressivo. Certo. Potrebbero però un pochino giustificare il sintomo, per cui io lo porterei dall'otorino e gli direi guardi, il mio acufene potrebbe un pochino essere influenzato, perché la carotide esterna potrebbe in effetti un pochino dare questo tipo di... Ma le leggo un messaggio di un ascoltatore. Sì. Se sento il cuore che batte nelle orecchie, potrebbe essere un segnale di una carotide che in qualche modo non funziona a dovere? Non necessariamente. Non necessariamente, può, ma anche può non voler dire granché ed essere un problema anche di anatomia del collo, per cui a un certo punto, siccome la carotide interna passa molto molto vicina all'orecchio, io a un certo punto potrei sentire un battito molto forte, ma è un problema dovuto a un aumento di frequenza del ritmo, a un problema diverso che non c'entra, non c'è un'associazione tranquillità diretta. Allora, prima di andare a Caserta e fare un saltino a Latina, vorrei farvi ascoltare una ricerca che sottolinea un aspetto di cui ci eravamo già occupate, proprio che riguarda il tema di cui trattiamo oggi, cioè l'elasticità delle nostre arterie. Ebbene, su questo influisce anche l'inquinamento. Andiamo. L'inquinamento dell'aria non prende solo alla gola, rendendo difficile respirare e scatenando crisi d'asma in alcune persone. Uno studio pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology dimostra che l'aria inquinata può danneggiare anche le carotidi, le arterie del collo che portano il sangue al cervello, aumentando così il rischio di rimanere vittime di un ictus. La ricerca ha riguardato oltre 300.000 abitanti della Grande Mela, del New Jersey e del Connecticut ed ha dimostrato che le persone che risiedono nei quartieri più inquinati sono quelle più a rischio di presentare un restringimento delle carotidi rispetto ai fortunati che abitano in quartieri dall'aria pulita. Professoressa Giammattasio, per giorni Cuore Denari a dicembre ha monitorato la qualità dell'aria lungo lo stivale insieme al dottor Mocci, che è un medico per l'ambiente, e abbiamo dato un po' una pagella partendo dai dati dell'ARPA. Ora la situazione è migliorata, ma sicuramente vivere, no? in città con aria inquinata, in città dove si superano, no? I limiti per giorni e giorni, sicuramente ai nostri vasi non fa bene, non solo ai nostri vasi, ma non solo ai nostri, ecco, vasi, certo. Che cosa allora, su questo? Io direi questo. Sicuramente questa ricerca che è stata pubblicata e che, come tutte le cose che si sviluppano in America, poi ha avuto un grande, come dire, clamore, è stata certo, poi molto pubblicizzata e tutto quanto, ci dice qualcosa che, mi consenta, è un pochino come la scoperta dell'acqua calda, certo, no? Nel senso che noi lo sappiamo molto bene, non abbiamo bisogno di ricerche scientifiche particolari per avere una chiara evidenza che se io vivessi in montagna probabilmente avrei una miglior funzionalità di tutti i miei organi e apparati. Detto questo, è vero che chi risiede in città è sottoposto però, e bisognerebbe andare a vedere se gli autori hanno tenuto conto di queste variabili, non solo all'inquinamento, ma una quantità di comportamenti scorretti, perché più probabilmente è un fumatore, più probabilmente non fa attività fisica, più probabilmente è iperteso, perché l'ipertensione è fortemente legata allo stress, e quindi è vero che noi che residiamo a Milano, per esempio, siamo più stressati che se non vivessimo in una piccola cittadina di provincia, magari immersa nel verde. È vero sicuramente che si alimenta peggio e quant'altro, quindi diciamo che la quantità di insulti che ricevono queste carotidi dovute a una moltitudine di situazioni scorrette non è facile riassumerla semplicemente con l'inquinamento. Certo, diciamo che le carotidi metropolitane, professoressa Giannattasio, sì, mi passi, sono messe peggio. Ecco, sono messe peggio. E a proposito, a proposito di metropoli, andiamo a sentire che cosa succede anche lungo le strade e le autostrade. A tra poco. Cuore e denari. Carotidi, abbiamo parlato delle carotidi metropolitane, dobbiamo tenerle da conto anche se non viviamo in una metropoli, dobbiamo mantenerle lisce, pervie e soprattutto flessibili. Abbiamo in linea con noi Giuseppe da Caserta e Tonino da Latina, che si sono messi in contatto con noi, che potranno approfittare dei consigli, dei commenti, delle indicazioni della professoressa Cristina Giannattasio. Allora, Giuseppe, buongiorno, arriva da Caserta. Buongiorno, sì. Senta, io volevo chiedere come 10-12 senta anni fa, Giuseppe, io la richiamerei, sì, perché mi, dove è da dove vento, mi sta parlando? Dalla spiaggia. No, tiravento, sì, tiravento. Si mette al riparo. Ecco, si ripari, così impariamo anche come mettere al riparo le carotidi. Va bene. Grazie Giuseppe, mi dica. E allora niente, volevo chiedere, siccome io 12 anni fa ho fatto l'esame delle carotide e erano otturate al 50%, facendo una cura così appropriata più o meno, ecco, essendo iperteso e il cardiologo mi disse pure che non esisteva un farmaco che poteva eliminare queste carotidi in effetti. Sì, cioè farle tornare sane, perché se le eliminiamo siamo malmessi, cioè restituire alle carotidi la loro condizione iniziale, va bene. E adesso quindi lei se le ha ricontrollato? Le sono ricontrollate e man mano sono sparite del tutto, è possibile questo? Cioè, non ho capito, Giuseppe. Le placche sono sparite. Allora, bellissima domanda, Giuseppe, che ci permette di chiederla alla nostra esperta. Ma allora, faccio un'indagine. Le carotidi sono ostruite al 50%. Sì. Ecco, fa una cura. Bello, Giuseppe ha detto più o meno, però qualche ne avrà fatta più che meno. E dopo 12 anni le ha controllate e le placche, puff, sono sparite. È possibile questo miracolo? E solo i farmaci riescono a farlo o possiamo fare qualcosa di diverso? Diciamo che ci sono vari atteggiamenti di trattamento terapeutici con farmaci tranquillissimi che ci possono aiutare soprattutto a prevenire il peggioramento. Allora, se uno ha una stenosi e comunque una placca, come dice il Signore, andrà sicuramente trattato con un antiaggregante che poi è la comunissima cardioaspirina, l'aspirinetta. Sicuramente il suo dottore gli avrà dato una statina, che è un farmaco che si dà sì per il colesterolo, ma ha la capacità di in qualche modo far regredire un pochino e stabilizzare la placca. Lo avrà trattato con antipertensivo, come lui a un certo punto ha detto, perché se aveva la pressione alta, e anche questo può aiutare. Poi mi viene da dire, il Signore non se la prenda, è possibile anche che il dottore che gli fece l'esame 12 anni fa, diciamo che è un pochino esagerato, perché io la vedo un po' difficile che da un 50% io ho una, dopo 12 anni, una arteria assolutamente perfetta, senza avergli fatto nulla più che una terapia di carattere farmacologico, perché sarebbe così bello se avessimo dei farmaci così efficaci, cosa che purtroppo adesso non abbiamo. Quindi stabilizzare, impedire la progressione e in qualche modo un pizzichino far regredire, sì. Poi a questa meravigliosa e un pochino miracolistica regressione direi che collabora un'eccessiva diagnosi al primo impatto, è probabile, perché non è un fatto comune, diciamo così. Ecco. Allora, diciamolo al Signore. Va bene. Tonino, va bene. Tonino da Latina, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Tonino. Buongiorno professoressa, mi scusi, Buongiorno. Volevo fare una domanda. Io sono un conducente di TIR, adesso la chiamo dal mio camion. E allora la vita degli autisti è abbastanza sedentaria. Ho 52 anni, fumo circa 30-40 sigarette al giorno. Bravissimo, tutti i fattori peggiori. E poi Tonino, ne aggiunga anche un altro paio. A lei ho dedicato una puntata con Deborah, proprio al guidatore di TIR, quindi fuma, è sedentario, ascolta Cuore Denari, e quindi questo già invece sono 10 punti, 10 punti a favore. Tonino, e quale altra? Sì. Diciamocele tutte, Tonino, cos'altro fa? Sì. Logicamente la mia vita è sedentaria, per di più peso 73 kg, sono alto 1,70 m. Ma la domanda che volevo fare io alla professoressa è questa. Sì. Noi facciamo sempre le visite di controllo ogni 3 mesi per il lavoro che facciamo, no? Sì. Però non ho fatto mai quelle delle coronarie, queste cose così. Quando influisce il nostro lavoro, il fumo e tutto il resto, sia sulla persona che sul nostro lavoro, come le devo dire? Ha capito la domanda? Sì, io penso, capito. Sì, penso che la professoressa Giannattasi abbia capito. Tonino è stato chiaro. Cioè, vuole arrivare al numero soldi. Delle sigarette, soprattutto. Vuole andare al punto. Ecco, Tonino vuole andare al punto, professoressa. Allora, ha capito? Io direi così. Che lei è un paziente, che un signore, perché non sappiamo ancora se è malato, perché per il momento diciamo che è un signore con un rischio potenziale abbastanza elevato, che un pochino diciamo è dovuto alla tipologia di vita che fa, e un pochino lei se lo cerca, tra virgolette, perché è una cosa che già potrebbe fare senza bisogno che la classe medica le dicesse tantissime cose, l'ha detto lei, quindi lo sa. 30-40 sigarette al giorno sono una cosa che nel 2015-2016 ormai si fa fatica a sentire. Bisognerebbe ridurre, se non abolire, il fumo, e poi chiedere al suo medico di medicina generale di farle fare qualche accertamento in più. Come dicevo poco fa all'altro ascoltatore, attenzione, un semplice elettrocardiogramma già ci dà l'idea di come funzionano le coronarie. Se il suo elettrocardiogramma è normale, se i suoi esami ematici che fa ogni 3 mesi sono normali, probabilmente i colleghi non hanno ritenuto di approfondire. Le sue carotidi effettivamente, con quello che lei ci ha raccontato, meriterebbero un ecocolor dei tronchi sovraortici, però a patto che lei cerchi di smettere di fumare. E questo a patto che Tonino ci faccia sapere, a patto che, anche perché professoressa Giannattasio, lo ricordiamo tutte le volte che parliamo di fumo, il fumo in qualche modo annulla o limita molto l'azione di terapie. Quindi gli effetti benefici di molti farmaci e anche del fatto che uno faccia una buona riesca a raggiungere una buona qualità di vita vengono del tutto aboliti dal fumo di sigaretta. Mettiamo che riusciamo ad avere un peso corporeo contenuto, riusciamo a fare attività fisica 3 volte alla settimana come sarebbe raccomandato e seguiamo tutti i consigli del nostro medico, la nostra pressione è controllata, la glicemia è controllata e quant'altro. Però fumiamo 30-40 sigarette al giorno, ormai lo sappiamo che è uno dei principali nemici della salute, quindi è sicuramente qualcosa che ci gioca contro. Voglio rispondere rapidamente, professoressa, siamo quasi a ridosso del nostro GR, Emanuele, che ci scrive, ho 56 anni, ci scrive su WhatsApp, e ho la pressione a 100, la minima a 100, nonostante un beta bloccante. Ci chiede se è a rischio. La minima alta può essere un fattore di rischio per le nostre arterie in modo particolare? Allora, la pressione a 100 non va assolutamente bene, prende solo un beta bloccante, deve andare di corsa dal suo dottore e dirgli per favore dammi un farmaco aggiuntivo in associazione, perché la pressione alta, anche la diastolica, costituisce un rischio per le carotidi, ma un rischio anche per il cervello e per il cuore, perché aumenta la probabilità che ci capiti un evento. Quindi, caro signore, non pensi che vada bene così, dobbiamo assolutamente tirarla giù con la pressione, non va bene. Allora, noi professoressa Giannattasio la ringraziamo per la sua chiarezza, grazie, per tutte le indicazioni, anche trattando un tema molto delicato, non ci ha spaventato, ma ci ha stimolato ad occuparci delle nostre carotidi così importanti, così spesso trascurate. Professoressa, grazie, le auguriamo grazie una buona giornata e speriamo di averla presto a Cuore Denari. Buona giornata. Noi abbiamo terminato, invece con Cuore Denari si ritorna domani alle 10.30 sempre puntuali. Io ci ritorno sarò anche con Investire Informati, per cui niente, le anticipazioni, tu hai qualche anticipazione interessante da fare? Sì, sulla classe di farmaci che sembra fare una svolta nel trattamento dell'emicrania, quindi emicranici. Ottimo. Domani per voi.